Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche di avere un po' di pazienza. Il tempo per affrontare i casi a volte è un po' lungo, perché lunghe e complesse sono le storie che ci raccontate. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, solitamente si affrontano temi di disastri ambientali, piccoli, grandi, minuscoli talvolta, soprattutto nel sud del nostro paese o nelle grandi città, dove è più facile commettere questo tipo di reati contro l'ambiente, che poi vuol dire contro noi stessi. Un po' più, come dire, anomalo per certi versi è leggere che queste cose capitano, e anche al nord, e per fortuna c'è chi vigila e chi cerca di porre rimedio. Sul Gazzettino del 3 novembre 2009, leggo testualmente da pagina 21 della cronaca locale questo titolo: allarme discariche abusive, siamo a Mira, provincia di Venezia, e l'ultima discarica abusiva è stata scoperta dai rangers alla fine di via Pallada, che è una via di questo comune. Contemporaneamente però si dà atto del fatto che il comune non è che sia lì a dormire, ma dall'inizio dell'anno ha già emesso 83 verbali nei confronti delle persone che abbandonano fraudolentemente, direi, i rifiuti. Di questo noi oggi parliamo, di come si comporta un comune al nord, chissà che non sia anche di sprono per i tanti comuni che hanno a che fare con questo tipo di problematiche. Do il buongiorno quindi al sindaco di Mira, Michele Carpinetti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, questo, partiamo dal rischio, dall'allarme, così come titola il Gazzettino. È tale oppure è una forzatura giornalistica a suo modo di vedere? Inquadriamo un po' la situazione. Si parla di discariche, ma in questo caso sono, diciamo, sversamenti che qualche cittadino indisciplinato fa in parti del territorio non sempre sorvegliate. Noi siamo in un territorio dove la raccolta dei rifiuti non ha visto emergenze negli ultimi tempi come in altre regioni d'Italia, anzi siamo virtuosi anche con la raccolta differenziata. Quanto raccogliete in media di differenziata? Beh, differenziata noi siamo sulla media della provincia del 60%. Quindi è molto elevata, molto elevata. È molto elevata, e possiamo dire che anche la nostra municipalizzata, noi Veritas, la società costituita dai comuni, appunto una società virtuosa che eroga servizi, diciamo, di qualità per quanto riguarda il trattamento e la raccolta dei rifiuti. Ci possiamo circoscrivere un po', diciamo, quindi questo allarme. Quindi succede, al di là dell'altro tema che sono le discariche conosciute, che nel passato anche attraverso, diciamo così, la zona industriale sono arrivate nel territorio, ma questo è un altro fenomeno che ovviamente impone risorse a disposizione per le bonifiche, e anche il comune nostro sta intervenendo su alcuni siti per fare appunto queste bonifiche. Ma per quanto riguarda invece il titolo del Gazzettino e la notizia, riguarda appunto episodi in zone non vigilate, che fuori il nostro territorio è molto grande, lungo l'idrovia, che appunto è, ha degli argini lunghi e nascosti, avvengono dei sversamenti di materiale vario, attraverso, diciamo, il quale si liberano di materiali che andrebbero portati tra l'altro negli ecocentri oppure nel trattamento dei rifiuti. Quindi ci sono assolutamente, ecco, anche perché ci sono alcuni nostro, ecco, sì, anche perché ci sono ecco, anche perché ci sono alcuni rifiuti effettivamente, così come li ha documentati il Gazzettino, che sono pericolosi davvero, come per esempio taniche di cherosene o frammenti di lastre di Eternit, il cui smaltimento, sì, esatto, sì. Sappiamo quanto sia particolare, deve seguire delle procedure molto rigorose. Ecco, però il Gazzettino vi dà, secondo me, anche un merito, quello di essere molto vigili, perché dice che dall'inizio dell'anno intanto avete emesso 83 verbali. Ecco, quindi come vi muovete per cogliere con le mani nel sacco coloro i quali abbandonano e quindi inquinano in maniera pericolosa il vostro ambiente? Sì, allora da circa un anno e mezzo sono stati istituiti gli ispettori appunto della società Veritas, che vigilano nel territorio per quanto riguarda gli abusi o lo scorretto conferimento dei rifiuti, anche diciamo quelli urbani. Quindi sono verbali che arrivano proprio dal presidio del territorio, che fa il comune attraverso appunto la sua società. Poi ci sono anche collaborazioni come i Rangers, che sono appunto sotto l'egida provinciale, che aiutano in questi controlli diversificati nel territorio. Quindi diciamo così, il volontariato più o meno organizzato vi viene incontro, insomma. Ecco, diciamo che allora che i cittadini la maggior parte sono disciplinati e nella raccolta dei rifiuti fanno il loro dovere. Questi casi sono isolati, ma sono tipici di chi viene da fuori comune, che magari è stata trovata anche l'origine del rifiuto, perché avevano scaricato degli scatoloni con nome e logo delle aziende. Quindi sono stati colpiti poi e sanzionati. Si è risaliti e si è anche arrivati a sanzionare. Benissimo, benissimo. E che appunto, venendo fuori comune, trovano in queste zone isolate il modo di scaricare. Quindi non è tanto un problema culturale dei cittadini del mio comune, che aiutano anche, perché molte segnalazioni vengono anche dai cittadini che abitano in quelle zone. Ecco, questo dovrebbe essere, come dire, un invito che va esteso a tutti i cittadini in ogni zona d'Italia, perché l'ambiente è una ricchezza assolutamente comune. Sindaco Carpinetti, io la ringrazio per il suo intervento e le auguro una buona giornata. Bene, ora dopo aver ascoltato il sindaco di Mira, Michele Carpinetti, do il buongiorno a Luigi Lazzaro, che è vicepresidente di Legambiente Venezia. Buongiorno Lazzaro. Buongiorno. Allora, la ricostruzione del sindaco, che riconosce questo tipo di piccoli abusi, diciamo così, ma che mette anche la cittadinanza al sicuro, si fa garante del fatto che i controlli funzionano, che i rapporti con le associazioni sono buoni, quindi che il territorio in altri versi è presidiato, la convince o meno? Beh, diciamo che da un certo punto di vista possiamo essere sulla stessa linea d'onda, nel senso che non parliamo nemmeno noi di emergenza di scariche abusive nel territorio, piuttosto di un abbandono di rifiuti che sta un po' degenerando, ecco, quindi da parte del cittadino, ma non solo cittadino, in realtà probabilmente sono più le imprese o le aziende che forse fanno un po' i furbi e lasciano un po' troppo in giro quello che in realtà dovrebbero portare nei centri appositi. Ecco, quindi da questo punto di vista sì. Ecco, ma la situazione di Mira, che è una situazione, abbiamo detto, l'abbiamo raccontata assolutamente senza allarmismi, soltanto per manifestare il fatto che spesso l'ambiente è violentato tanto nel sud quanto nel centro quanto nel nord Italia, ecco, ma la situazione di Mira è esemplificativa di uno stato di tranquillità nel resto della provincia di Venezia, oppure eccezione fatta per Venezia, lo sappiamo, con tutti i problemi di bonifica che ormai sono, come dire, noti danni, ecco, ma nel resto della provincia di Venezia ci sono punti di allarme o comunque l'attività delle amministrazioni è come dire, corretta e continua, e quindi grandi problemi non ce ne sono? Noi diciamo che per quanto riguarda soprattutto la questione rifiuti, visto che stiamo parlando di questo, certo, la provincia di Venezia dovrebbe fare forse un passo avanti, nel senso che le percentuali non sono basse di raccolta differenziata nella provincia di Venezia. In realtà abbiamo alcune eccellenze e alcuni comuni che invece, come dire, arrancano ancora sulla percentuale di raccolta differenziata. Ecco, tanto escludendo appunto il comune di Venezia, giustamente, che subisce insomma una certa difficoltà, sì, per la sua conformazione. Ha una difficoltà tutta propria, come abbiamo detto, nella raccolta dei rifiuti o comunque anche nella bonifica di grandi aree chimiche, ex chimiche, industriali, comunque che impegnano da anni anche la politica. Però lei parla di percentuali non uguali dappertutto, Lazzaro, ma abbiamo sentito che la media è del 60%, se il 60% ci fosse al sud probabilmente baceremmo tutti per terra, o no? Beh, questo è vero, però dobbiamo anche ammettere che al sud ci sono eccellenze come la provincia di Salerno, dove probabilmente ci superano anche per alcuni comuni della provincia di Venezia, insomma, non tutti i comuni stanno sopra il 60%, cosa che in realtà dovremmo, in quanto regione che si promuove virtuosa da questo punto di vista, dovremmo in tutti i comuni riuscire a arrivare a superare questa percentuale. C'è un altro dato fondamentale che mi preme dire, che i dati che noi abbiamo come Legambiente, i dati che hanno anche le amministrazioni pubbliche, sono relativi alla raccolta del rifiuto, diciamo alla radice, alla base, al bidone della raccolta differenziata. Poi andare a mettere, come dire, gli occhi e le mani dentro per vedere cosa effettivamente c'è nella raccolta differenziata, quello è un altro passaggio, insomma, certo. È lì che noi vorremmo riuscire ad arrivare. Sì, così come un altro passaggio è anche che fine fanno molte produzioni, molti scarti industriali, artigianali o anche di comuni che prendono la strada del sud e spesso non si sa bene che fine facciano, no? Sì, come dire, la questione mira, questa questione di micro discariche, o chiamiamoli abbandoni di rifiuti, è un po' un sintomo di com'è la situazione, diciamo anche culturale, nel senso che tutti abbiamo la raccolta differenziata in Italia, nel nostro comune, nella nostra provincia, però non c'è una spinta adeguata da parte delle istituzioni in generale per educare in modo reale, non solo reale e concreto, non solo il cittadino singolo, ma soprattutto l'azienda, l'impresa, che la produzione principale di rifiuto e di scarto viene sicuramente da loro e non dal cittadino singolo. E noi siamo qui anche per dare il nostro contributo. Io ringrazio Luigi Lazzaro, vicepresidente di Legambiente Venezia, in regia Roberto Scaltritti e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo ovviamente vi augura una buona giornata.